dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! Ed è mercoledì, sono le 18 e come sempre c'è l'Onda in Onda su Radio Panorama degli studi di Termini Merese. Ciao a tutti, io sono Andrea, dietro il mio vetro c'è Bumbo. Ciao Bumbo, come stai? Benissimo, benissimo. E Antonio Manca, lo aspettiamo, starà venendo, anzi, mi ha appena scritto che sta parcheggiando, quindi sta venendo qui in radio, sempre in ritardo, Il bello della diretta, è che se ti manca un co-conduttore te ne accorgi, perché non parla, parli solo tu. Scusate, allora, oggi abbiamo un programma carico di interviste, abbiamo gli Inverse, con noi un gruppo emergente indie rock e pop, e poi per la nostra rassegna indie rock e pop, scusate, e poi ovviamente più tardi avremo l'intervista con i Tre Allegri Ragazzi Morti. Davide Toffolo si concederà i nostri microfoni per la presentazione del loro nuovo album Primitivi del Futuro. Sono stati a Palermo qualche settimana fa a fare il concerto ai Candelai, chi li ha visti sa già quanto è bello il loro nuovo album, ma noi glielo chiederemo in diretta per voi. Poi il nostro Marco di Film Brutti, che vi farà autopunire alla fine di questo programma con il film brutto della settimana. Il TG Lerch, che arriverà verso le 19, quindi attenzione per chi ha bisogno di news molto importanti. E poi tanti ospiti ci saranno nel corso della puntata, ma per saperne più dovete restare con noi. Ma non possiamo iniziare ovviamente questo programma se non con la nostra sigla. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, clap, iodo, ciappiar, mosche, va, yamai! One, two, three, four! Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Subito i contatti per chi vuole mettersi in contatto con noi e rimanere aggiornato. Intanto vi aggiorno, in realtà in diretta, ecco, lo sapevo, avevo detto non fatelo entrare. Quando lui arriva in ritardo fa sempre un casino. Ciao a tutti, eccomi. Ciao, arrivato Antonio. Un po' in ritardo, dai, tre minuti di ritardo. 5? Facciamo 10. Non è vero, perché hai iniziato ai 5. 8. Come fai a saperlo? Perché ero in radio. Eri in radio in macchina. Però ti ho portato l'acqua. Grazie. Non possiamo dire il nome, vero? Vabbè, Geraci. No, dai, non vale, non puoi. Ora devi nominarle tutte. Vabbè, ascolta. Non so. Sì, va bene. Allora, intanto diamo subito i contatti per chi vuole rimanere in contatto con noi. radiopanorama.info.eu per streaming audio e video. Poi sms al 380 76 90204, ripetiamolo, 380 76 90204, li leggiamo tutti, anche quelli più blasfemi, anche quelli più quelli più sporcaccioni, quelli più volgari, spinti. No, non lo so. E poi dobbiamo salutare intanto la squadra Aris Termini di Pallavolo, e in particolare Anna Rossella ed Eleonora, che ci stanno ascoltando. Allora, un grande applauso, eccola la curva. Ma ritornando ai contatti, un grande in bocca al lupo ovviamente ad Anna Rossella e Eleonora per la prossima partita di domenica. Oggi. Ah, giocano oggi, cos'è? Scusami. Giocano oggi e ascoltano l'Onda in Onda, bellissimo. Giocano oggi. A che ora giocano? Alle 7:30. Ah, quindi proprio tra un'ora e un quarto. Sì, sono in macchina, stanno andando in trasferta. Allora speriamo di portarvi Facciamo buone notizie. Compagnia durante tutto il viaggio. Sì, anche il riscaldamento e la partita. Sì, ma speriamo che ci mettano in diretta durante il riscaldamento. Sì, magari ci sono le casse, no? Sì, le famose casse collegate a Radio Panorama. Continuiamo con i contatti: facebook.com/londainonda oppure twitter.com/ondainonda. Invece senza la L. Senza la L. E poi basta, l'abbiamo detto tutti, no? Non lo so, gli sms li hai dati? Gli sms li ho dati due volte. Io ho una sorpresa, ragazzi, sì, perché una nostra ascoltatrice ci ha mandato una poesia. Perché io ho detto, ma recitala tu in diretta, chiamaci. No, mi ha detto non me la sento, quindi leggila tu per me. Ma, e quindi la leggerai adesso? Dopo, l'ho annunciata, sì. Annunciamo che ci sarà anche la classifica delle 10 cose che, e per chi se lo fosse perso, appunto con noi oggi ci saranno in intervista gli Inverse e poi i Tre Allegri Ragazzi Morti con Davide Toffolo, più tardi ai nostri microfoni, o meglio al telefono, però ai nostri microfoni, sì, telefonici. Oggi hai problemi, sì, cioè oggi vedo problemi. Che ti giri vorrei... a cercarmi più del solito. Sì, sì, sì. È grave, sì. Grave. È questo. Vero, è vero. Va bene, allora iniziamo subito con il primo pezzo di questa settimana e ci spariamo subito i Pancreas con Polenta e Kebab. La musica che preferisci. Panorama. Musica allo stato puro. Che studiano i riti dei Celti e dei Longobardi. Non parlano la lingua italiana, non sanno chi fosse il poeta Leopardi. Ma odiano il kebab, Maometto i senza tetto e anche la pizza. Chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza. Inventano qualche balla, attirano la folla col rito dell'ampolla e l'offerta di Obon. Ricordo gli esordi degli uomini verdi, rancontro i terroni pugliesi, anche i sardi, finocchi, gli zingari, i negri bastardi, il tricolore Garibaldi. Vogliono il kebab, Maometto i senza tetto e anche la pizza. Chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza. Cantando il fa pensiero, ci credono davvero, fedeli a un condottiero, un druido fatto un po' così. Non parla neanche bene, si esprime solo a gesti, se lo incontri per la strada proprio non diresti che... Fa parte della razza superiore, si può fermare solo con l'aiuto del dottore. Ma se la scienza medica si mostra pessimista, ci vuole l'esorcista. Senti che puzza, scappano anche i cani. Stanno arrivando i napoletani. Napoli merda, Napoli colera. Tu sei la vergogna dell'Italia intera. Ma vorrei che fosse chiaro che tra i napoletani ce ne sono tantissimi per bene anche di più. Non siamo noi, noi siamo quelli che pure a Napoli ci chiamano Zulu. Odiano il kebab, Maometto i senza tetto, anche la pizza. Chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza. Cantando il fa pensiero, ci credono davvero. Fedeli a un condottiero, un druido fatto un po' così. Non parla neanche bene, si esprime solo a gesti. Se lo incontri per la strada proprio non diresti che lui crede di far parte della razza superiore. Si può fermare solo con l'aiuto del dottore. Ha un posto fisso in villa, si sente lusingato. Ma poi la vera festa inizia quando se n'è andato. Lui crede di far parte della razza superiore. Si può fermare solo con l'aiuto del dottore. Eh sì, purtroppo l'Andrangheta è sempre anche a Milano. Erano i Pancreas con polenta e kebab, come dice Andrea, o kebab, perché poi c'è sempre la scuola di pensiero kebab. Dell'accento kebab. Kebab. Kebab. Non ho capito, chi è? Kebab. Scusa, è entrato un successo? Signore che sta cercando... Kebab. Scusi, lei chi è? Kebab. Lei è Kameb o sta cercando... Ah, lui è Al-Akmem, vabbè, sta cercando? È un arabo. Ma chi cerca? Che chi è? Cerca Kameb. Chi è Kameb? Ma so. Perché lo cerca nella vostra radio non tutti i personaggi più incredibili? Qualcuno che è dalle porte, no? Riesce a urlare Kameb. Qualcuno che dalle porte. Sì, nel senso che... Cioè, poi quelli, vabbè, che passano da qui hanno sempre dei destini... lui continua a cercare Kameb. Comunque dico, quelli che passano da qui hanno sempre poi dei destini assurdi. Un po' come Michelino, che è stato nominato, ricordiamolo. A proposito... Dico, a parte Michelino, sto dicendo che è stato nominato Presidente del Consiglio da Napolitano. Più tardi avremo l'intervista, poi non sappiamo, diciamo, finale con Napolitano. Perché il 18 sì, aprile dopo... partono le consultazioni. Quindi oggi è giorno 10. Oddio, a dire il vero anche il 17 potremmo sentirlo. Ogni tanto sento lui che chiama Kameb, però sempre più lontano. Sembra sotto il tavolo. Sì, tra l'altro parla da sotto il tavolo. Può uscire. Volevo fare l'usciere. E allora siamo qui oggi. Quale sarà la classifica delle 10 cose che? Ve lo diremo più tardi. Intanto dovremmo spararci qualche notizia. Sì, partiamo da quelle importanti o quelle meno importanti? Ovviamente quelle importanti, quelle che fanno riflettere l'opinione pubblica ogni giorno. Sì. In ospedale con un'anguilla nel retto, volevo imitare un film hard. Ah, dove può essere accaduto? In Cina. Ma era un film brutto. Un film brutto. Ma tanto non ci sono stranamente nomi che tu non possa pronunciare. Lo so, ma è accaduto in Cina, quindi già è un luogo con nomi strani. Sì, anche se però non ci sono. Dove un uomo si è presentato ai medici di un ospedale con un rettile vivo incastrato nell'ano. L'uomo di 39 anni si è giustificato dicendo che stava tentando di emulare la scena di un film hard. Ma che cosa ha visto quest'uomo? Che film ha visto? L'uomo ha provato a levare da solo un animale, ma la bestia si era incastrata e recandosi al pronto soccorso ha chiesto aiuto ai medici. Ecco, anche qui non capisco se è il soggetto è l'anguilla che ha chiesto aiuto ai medici per uscire. Non lo so. O lui che ha chiesto aiuto per farla uscire. Vabbè. Ma l'anguilla stava semplicemente cercando la via di uscita, ha dichiarato uno dei medici, che ha aggiunto è stato incosciente. I denti dell'animale avrebbero potuto creare gravi conseguenze. Immagino un medico che dice è stato incosciente, cioè è come se avesse scavalcato, non so, una recinzione. No, l'animale è stato estratto vivo dal retto, ma poco dopo è deceduto. Non si può. Ora le autorità. Cioè, tu capisci che tu ti infili un'anguilla in culo e il medico commenta dicendo è stato incosciente. Sì, stupidino. Ma ora le autorità si interrogano se si possa parlare di maltrattamento di animali. Questa è la cosa importante. Non c'è anche la radiografia. È del filmato, forse con l'intervista al medico. Sì. Cioè, allora, quindi se volete lo trovate, la fonte è Leggo. Sì. Invece la fonte è Lercio, se volete stare più avanti con noi ci sarà il nostro TG Leggo. Intorno alle 19 qualche minuto avremo la possibilità di ascoltare insieme le nuove notizie attesissime del TG Lercio. Prima di passare al prossimo pezzo, dobbiamo leggere la notizia che volevamo già leggere la settimana scorsa. Sì, quando perché ce ne siamo accorti. Lunedì scorso, quando abbiamo iniziato l'avventura del Troppo Forti. Anzi, se non lo sapete, ogni lunedì dalle 18 alle 20, io e Andrea, insieme al buon Filippo Fu, vi teniamo compagnia altre due ore. Dice non basta il rompimento del mercoledì. No, noi vi teniamo compagnia con Troppo Forti. C'è sempre quell'arabo. Scusi, ma lei ha provato verso lì? Ma lei me lo può ripetere il suo nome? Ah, lei comunque Kameb è l'inizio di tutti i nomi della Kameb famiglia. Kameb iniziano tutti i nomi. Tutti i nomi arabi. Quindi Kameb non chiami strano, nessuno. Vabbè. Comunque, quindi vi ricordiamo l'appuntamento con i Troppo Forti. Ma dicevamo, c'è una notizia che ci preme raccontarvi. Sì. Soprattutto in questi tempi, no? Sì, di, no, ma anche in questi crisi. Sì. Ma direi dove non si trovano case. E voi direte, è una notizia che calza a pennello, no? Sì, perché la gente deve interrogarsi sul problema dell'abitazione, no? Sul problema del lavoro. E infatti questa notizia calza a pennello. Vieni cara, c'è un pacco per te. Così un uomo ha fatto esplodere sua moglie. Non c'entra niente. Però il modo è carino, devo dire. Perché, amore, voglio fare pace. Vieni nel bosco vicino a casa, c'è un pacco. Sembra finta notizia, ma è sicuro che è vero. Un uomo russo, 39 anni, ha così invitato l'ex moglie in un bosco vicino a casa con la scusa di prendere dei documenti utili e necessari per risolvere i problemi finanziari del padre. Una scusa, un ennesimo tentativo di convincere la moglie. Il pacchetto però era collegato ad un ordigno esplosivo. Aperto il pacco, la donna è esplosa. La moglie è stata poi trasportata nel vicino ospedale, ricoverata ha subito diverse fratture e ha perso un dito. La commissione d'inchiesta ha affermato che l'uomo sostiene di aver creato l'inganno al fine di convincere la donna a credere che lui è il suo unico protettore. È bello, un russo completamente strano. Certo, non è esplosa la moglie, è esplosa la bomba, colpendo la moglie. Però fa più ridere. In un bosco si trovano sempre dei documenti utili e necessari per risolvere i problemi. Vabbè, perché voleva organizzare comunque la caccia al tesoro, che diventava intrigante. Va bene, allora passiamo subito al prossimo pezzo e vi daremo la classifica appena rientrati in studio, quindi state con noi. E allora, da tanto che non ce l'annuncia quello che chiama dalla California, ci ascoltiamo i Red Hot Chili Peppers con Look Around. Ad ogni ora, grandi successi di ieri e di oggi. La tua musica, la tua radio. Radio Panorama. My nature, custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion, hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon, one big crash that no one dies in. This is for the folks. Come true and say it will. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. Look around, look around, look around. All around, all around. a lot of words on an old brick wall. Rob a lot of banks, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square. Run around like we just don't care. Tornati qui in diretta alle 18.27, sempre Radio Panorama, con quei tre pazzi dell'Onda in Onda, e possiamo darvi il titolo della classifica delle 10 cose che scoprirete oggi con noi. Oggi faremo la 10... Come? Cosa? Ci riprovo. Oggi faremo la... Oggi vi diremo la classifica delle 10 cose che... No, i 10 momenti di ansia pura. Eh sì, quindi se volete sapere... Ma iniziamo dopo, sono... iniziamo dopo. Allora, dopo. I 10 momenti è il titolo. Vabbè, ok, i 10 momenti di... Ricordiamo che fra poco, dopo la pubblicità, avremo l'intervista con Marco Barberis degli Inverse, quindi rimanete con noi, e poi avremo i tre lei, i ragazzi morti con Davide Toffolo. Perfetto, tra quanto è la pubblicità? Regia, mi fai un segnale? No, no, no. Un 5 minuti. Tu non potevi dire, cioè, la mano non hai 5 dita, te le hanno amputate. Sì. Ho chiesto di dirmelo. Sì. Te l'ho detto, te l'ho chiesto con un segno. Robot. Esatto, è programmato per rispondere in questo modo. È passato di nuovo, ma è Cameb o Camed? Non lo so, non si capisce. Che posso uscire dallo studio a chiedere. Può anche essere Camello. Scusi, Cameb o Cameb? Cameb. Vabbè, se trovate Cameb, no, allora in strada, fatecelo sapere. Allora, si è perso. Tu sai chi sono gli Amish? Gli Amish, sì, quella comunità che sta nei boschi e vive tipo al 1800. Non so se stanno non è che vive nel 1800, cioè, hanno le loro tradizioni, non hanno l'elettricità, non hanno idioti, l'acqua calda. Sì, esatto. Allora, ecco, vediamo. Ecco, è il momento. Spazio al, come dire, il poco razzismo di Andrea Massaro. Ma sono degli idioti. Ecco, dai, il rispetto per le altre comunità, cioè, le altre idee. Ma idee, ma che mi chiede? Cioè, allora, scusami, se tu non mamma se sei ragazzi, una tribù. Che radio di informazione. Una tribù sta nel guano dei pipistrelli perché non ha conosciuto la civiltà, ci può stare. Ma se sei uno che è nato nel 2013 e vai a vivere nel 1800 e loro rifiutano il progresso, l'elettricità, le automobili. Allora, quindi, Antonio, se s'ammalano, chi sono gli Amish? Appunto, gli Amish sono questa comunità che vive. Gli Amish un po' partire così. Sono una comunità che vive in America in diverse zone. Rifiutano il progresso, oh sì, diverse zone a cazzo, dall'elettricità alle automobili, e vedono con sospetto anche la fotografia. Ah, e basta, è finita? Sì. Questa è la notizia? Sì, così. No, questa è la spiegazione degli Amish. Ah, okay. La notizia è che invece un fotografo, nonostante il loro odio per anche la fotografia, si è riuscito a infiltrare per fare loro delle foto, e loro ci sono stati. Non so se poi gli hanno preso la macchina e gliel'hanno distrutta, però ci sono riusciti. Gli hanno detto, guarda, questa non è una macchina fotografica, è soltanto una macchina fotografica, soltanto una scatola con un nano che dipinge a olio. Esatto. E loro hanno detto, ah beh, ma allora è dell'800. Cazzo. Allora, è perché tra l'altro non si sa perché parlano questo misto. Cazzo, ma allora è veramente dell'800. Cioè, basta solo che Besuchi, sembra genovese. Dai ragazzi, tutti le foto. E che siamo i parenti del Gabibbo. Ma perché il nanetto dentro che dipinge, cazzo, è anche veloce. È un cretino. Tra l'altro, la cosa bella è che questo il leghista medio è un Amish. Esatto. Cretino. Quattro donne e un uomo di questa comunità, tra l'altro, stanno per andare in prigione perché hanno avuto degli scontri con un gruppo, diciamo, dissidente. Non lo so, se magari è un po' come il Movimento 5 Crimi. Stelle. Ecco, è andato Crimi lì a dire, noi non facciamo il governo. Sì, allora, ma noi siamo senza elettricità. Sì, secondo me loro hanno quella cosa lì, sai, qualcuno che si dissocia e vuole creare il blog, un po' alla Beppe Grillo. In realtà vuole modernizzarsi. Il blog Amish, vogliono dissociarsi. Sulle tavolette di Creta. Mi fanno segno che lanciamo il prossimo pezzo, poi pubblicità, ma rimanete ovviamente con noi, perché chi va via non è figlio di Maria. E ci ascoltiamo The James Gang con Funk 49. Ma non c'ero l'800, che lo so, ma cazzo, che preferisci. Panorama. Musica allo stato puro. To a party just the other night, but 3 hours later siamo tornati qui in diretta, sempre con l'Onda in Onda dagli studi di Radio Panorama a Termini Imerese. Siamo sempre io, Andrea, il buon Brumma alla regia, sempre attento, sempre pronto. Oggi con la maglietta di Franklin, quindi altra pubblicità occulta. Sì, sempre, sempre pubblicità occulta. Ma non proprio occulta. Se volete vederci e ascoltarci streaming, radiopanorama.info.eu e poi facebook.com/l'onda in onda o twitter.com/onda in onda without the L. Senti Antonio, ma tu, sì, tu se sì. avessi un figlio, sì. ha tanti figli, sì. il peggiore dei tuoi figli, come lo chiameresti? Il peggiore? Odoacre! No. Ah. Io lo chiamerei Marco Barberi, se l'abbiamo qui ai nostri microfoni al telefono. Ciao Marco! Ciao a tutti! Ciao, ciao, come stai? Come stai Marco? Bene, bene, voi? Bene, benissimo, qua c'è un sole splendente, la Sicilia proprio è nel pieno della sua bellezza, devo dire, in questi giorni. Allora, per chi non ha ascoltato l'anteprima, Marco Barberis, cantante degli Inverse, giusto? Giustissimo. Un gruppo o Inverse? Inverse, allora giù, dai, per una volta che hai azzeccato Andrea, non te lo rimangiai, Inverse. Tutti gli accenti li sbaglio. Esatto, ma sai, gli sbagliò. Ci stai parlando da Biella? Sì, paese vicino, il paese in cui vivo, Vigliano, comunque Biella, sì. Ho capito, ma voi col gruppo vi siete conosciuti e incontrati a Biella oppure nel paese da cui ci stai chiamando? A noi piacciono questi dettagli anche, devo dire. Noi siamo tutti dello stesso paese e prima di suonare insieme non ci conoscevamo, a parte Enrico e io che siamo fratelli, però Mirko... Enrico è il bassista, giusto? Enrico è il bassista, esattamente. Sì. E Mirko il batterista e Mattia la chitarra, non eravamo sconosciuti praticamente, pur essendo dello stesso paese e avendo quasi tutti la stessa età. E quindi è stato questo bell'incontro. Tra l'altro voi avete cambiato nome diverse volte, perché ho studiato un po' la vostra storia nei scorsi giorni. Voi vi chiamate inizialmente Revers, che poi è diventato Rivers, e poi con l'ingresso nella band di Mirko, che ha sostituito il batterista precedente, vi siete chiamati Inverse, così col nome che avete adesso ancora. Sì, esattamente, ci chiamavamo Reverse, poi ci siamo accorti che era un nome che avevano praticamente 400 milioni di band in tutto il mondo. Ok, vabbè. Quindi se lo cambiate di nuovo, essendo Inverse, potete fare Srevni. Esatto, abbiamo anche utilizzato ogni tanto per fare qualche giochetto. Ah, perfetto, quindi voi vi divertite praticamente a ogni disco, la gente non saprà chi andare a cercare. Senta, va al punto info, senta, vorrei un CD degli Reverse, Reverse, Inverse, Vrz, non sanno più cosa dire. Allora, parlaci di non cambiarlo più. Ok, speriamo di tenere questo, dai. Parlaci di questo tuo album, dal peggiore dei tuoi figli, perché? Ma dal peggiore dei tuoi figli praticamente è una sorta di... È come se l'album fosse una specie di dono, tra virgolette, se così si può dire, e da parte del peggiore dei figli di quella che potrebbe essere un'entità superiore. E il peggiore perché... tutti gli esseri viventi dovrebbero in teoria essere figli di questa entità superiore, e l'uomo, per come si comporta e per quello che fa verso i propri simili e tutti gli altri esseri viventi, di certo è il peggiore. Ho capito, quindi l'album viene proprio da quello, cioè dal peggiore, o è un, non lo so, un augurio? No, è una sorta di autocritica, ecco. Capisco, ho capito. Un esame di coscienza, no? Ho capito. Ma voi vi sentite più vicini, diciamo, siete proprio a metà strada tra l'indie che può essere di scuola anglosassone e quello che può essere la storia nostra, della nostra musica italiana, del stile di scrittura italiano? A cosa vi sentite più vicini? Siete proprio in mezzo? Ma musicalmente più vicini, sì, a quello che arriva dal mondo anglosassone, sicuramente, dal punto di vista musicale. Poi il fatto che comunque i testi siano in italiano ci lega a quella che è appunto il nostro paese, e anche se in realtà non prendiamo proprio spunto da artisti precisi, ecco, da qualcuno in particolare, ma è proprio diciamo l'ambiente, un po' lo stile, quello che viene stile, viene, sì, quello sì, che sì, ci viene, noi pensiamo sia la cosa più importante, sia ascoltare tanto, cercare qualcuno che ci ispiri, però di fatto sentire poi quello che uno ha. Ma se voi ad esempio, se vi chiedessero la classica domanda, a quale cantatore, a quale maestro che il nostro paese ha sfornato vi sentite più legati? Magari amate di più i testi, o magari ognuno di voi c'ha il suo, quindi magari mi dice quello che piace più a te, quello che ti ha segnato un po' il cammino. Beh, come hai detto tu, ognuno di noi ha il suo. Sì. Poi vabbè, anche che sei italiano oppure no. Io personalmente non ho una preferenza, cioè mi piace ascoltare tutto e mi piace leggere di tutto, sì, prendo spunto qua e là, quello che va anche in base al periodo, va soprattutto in base al periodo, in base alla sensazione che provo quando leggo o ascolto qualcuno. E non ho proprio un riferimento. Non ce l'hai uno in particolare? Beh, bello, così. No, anche perché forse è una cosa buona anche quella. Sì, no? Sì, perché ci sarebbe poi la tendenza troppo ad essere attaccato a quella cosa lì, a quel personaggio lì. Andrea, senti, stavi chiedendo? Sì, il vostro singolo, Non preoccupatevi per me se fuori piove, di cui poi ti invito a sprecare due parole su questo singolo, è in rotazione, è attualmente su MTV, e in questo mese di rotazione televisiva voi avete deciso di regalare 5 brani attraverso la modalità Pay with a Tweet, leggo dall'estratto. Cos'è questa modalità e perché questa decisione? Il Pay with a Tweet è una cosa molto interessante, nel senso che ci riporta, come noi scriviamo anche sul sito, a quello che era il baratto. Se una cosa ti piace, tu la prendi e in cambio dai il tuo passaparola, insomma. Noi, appunto, sfruttando questo mese di rotazione, abbiamo deciso di regalare 5 brani estratti dal nostro album. Usando questa formula qui, nella speranza che a chi piace poi magari ne parli a tu, non è necessario che si dica nulla, semplicemente si prende le tracce e poi in automatico viene pubblicato un post o un tweet sulla pagina o il wall di chi scarica i brani. Esatto, quindi basta andare nel vostro sito, cercare il brano interessato e uno dei 5 brani interessati e cliccare su Pay with a Tweet e in automatico viene twittato il fatto che è stato acquistato questo brano e chi vuole lo può scaricare praticamente gratis. È gratuito, sì, esattamente. E senti, su Non preoccupatevi per me se fuori piove, due parole, poi lo ascolteremo insieme ai nostri radioascoltatori e chiaramente ti salutiamo facendoti un grosso in bocca al lupo. E Non preoccupatevi per me se fuori piove è tra tutti il brano più vecchio, però è anche quello che non ci stanca mai di suonare, che alle volte non succede. E il testo nasce un po' dalla domanda che ci poniamo quando ci sentiamo magari un po' messi da parte, abbandonati tra virgolette, sì. E poi va a ricercare il motivo di questo comportamento da parte di altre persone per poi arrivare all'esame di coscienza e rendersi conto che effettivamente è il nostro comportamento che influenza il comportamento delle altre persone e quindi insomma è poi un cane che si morde la coda, sempre comunque siamo sempre lì a pensare alle nostre azioni verso i nostri simili. Beh, una bella analisi. Senti, voi state pensando a dei live in questo momento oppure fate un tour per locali, qualcosa? Sì, stiamo cercando diverse date, ne abbiamo trovate per ora da qui ai mesi a venire e sono tutte le date si trovano sul nostro sito che è inver.it e sono in costante aggiornamento, quindi alle volte capita all'ultimo momento che la spostano, la annullino oppure si rinvii, e quindi se qualcuno vuole seguirci sul sito trova sempre inverse.it, pagina 6. Sì. Va bene Marco, allora noi ti facciamo un grande in bocca al lupo. Ti ringraziamo per essere stato ai telefoni di Radio Panorama dell'Onda in Onda. Ti facciamo appunto i grandi auguri in bocca al lupo e ci ascoltiamo proprio il pezzo Il Peggio. No, no, scusami. Non preoccupatevi per me se fuori piove. Per me io valgo poco. Non preoccupatevi. raccoglieranno pietre. Ma comunque ci è piaciuta, dobbiamo dire che è un bel pezzo. Quindi applauso della curva di Radio Panorama. Gli Inverse, bravi, bravi. Esatto. Ricordavano un po' i Clash. Sì, riflettevamo in studio. Calling. Sì, ricordavamo. Insomma, però un gran pezzo. Allora vogliamo salutare Stefania, la mia girlfriend che ci sta ascoltando, Serena che è qui in studio, la tua girlfriend che non hai salutato perché sei al solito un maiale, e New Entry Martina, una ragazza ciao. Che ci sta ascoltando. Stai salutando Serena o Martina? Da dietro il vetro. Ah, da dietro il vetro Serena. E salutiamo anche Martina, una gemella. Ecco, lui non so se sta cercando un'altra gemella o chi cerchi, scusa? Cerchi Kameb, quest'arabo che non sapevo se Kameb è all'ascolto. È dietro lo studio. Venga qui perché c'è questo ragazzo che si chiama. Come si chiama? Che ne so. Lui. Come ti chiami? Tu che chiami Kameb? Kameb Alanna. Quindi, ok, Alanna è il cognome. Vabbè. Ma. Cioè, chi non conosce lo studio non sa che diciamo pareti molto sottili a volte. Cioè, prende... Senti questa gente che urla. Sì, sì, noi non abbiamo una stanza proprio insonorizzata. Un giorno lo intervisteremo. Allora, no, non è vero. Al momento del nostro amico? Sì, lo presenti sì, tu sì, allora. Sì, lo presento io perché oggi è una ricetta veramente incredibile. Io... Quindi tu già la sai in anteprima. Ho il libro. Quindi comprato l'hai il libro, comprato? Certo, il libro. Ma è il seguito delle famose 3C di Scopelliti, credo. Esattamente. Non sappiamo il titolo del nuovo esattamente. Libro. Non abbiamo ancora annunciato il nostro ospite. Ma tu hai già detto il cognome, ma chi lo conosce già, insomma, si è fatto un'idea. Ma per chi non lo conosce, lo presentiamo. Lui è un ex medico nutrizionista che ha, diciamo, ucciso involontariamente un malato di ipertensione con una ricetta. Hai detto volontariamente? Scusa. Involontariamente. Ah, ok, temevo. Nell'Anduja calabrese. E da allora, per lavare l'onta di questa vergogna, l'onta è già la vergogna. Ha detto niente. Tre volte onta. Volevo dire qualcosa. Ma perché non inventiamo un nuovo programma che si chiama L'onta in onta? L'onta in onta. Perché lo chiami volevo così. Volevo dire una cosa più profonda, invece mi è uscita una paccata. Vabbè, niente, basta. Io lo vado a chiamare intanto. Esatto, per lavare l'onta di questo omicidio, lui ha deciso di girare le radio d'Italia e il mercoledì è qui da noi, chiaramente non possiamo non presentarlo senza la sua mitica tarantella calabrese perché lui è Tony Scopelliti. Buonasera Tony. È sì. Vero, è vero che c'è la webcam. Però esatto. Per e chi quindi... ci ascolta senza webcam, anche se lei balla. Ah, addirittura mi giunge voce che è nascutano da Romania. Dalla Romania. Esatto. E chissà se ci ascolta. Io pure cercavo a Kameb. Perché anche me lei cercava Kameb. Esatto, perché ha una nuova ricetta di couscous e me la vedete. Vieni qua Kameb, ti aspettiamo tutti. Allora se cercate Kameb, lui il nuovo presidente. Se cercate Kameb, chiamate se lo vedete 320 8327 710. No. Vabbè, non è il tuo numero, ci assomiglia. Ah, in replica allora lo dirò meglio dopo. No, quando lei non se l'aspetta. Allora, caro Tony, io so che ho letto il suo libro, un libro bellissimo. Ma l'ha letto come un romanzo, così. Come un romanzo, cioè, tutto d'un fiato. Tutto... Come lei finisce le ricette. Ma come si fa a leggere un romanzo, cioè un libro di cucina tutto d'un fiato? Ma io capisco. Si può fare. Ascolti, ricordiamo al pubblico che la ricetta che darà oggi va, diciamo, registrata con carta e penna, quindi invitiamo a prendere carta e penna per segnare bene tutti gli ingredienti di questa ricetta. Vogliamo dire il titolo, caro Tony, come cosa ci ha portato oggi? Oggi vi portai i patate in brodo. Sì? Scusi, che ho avuto un po' di tosse. I patate in bacchiusi trascinati dalla festa. Cosa ci ha portato? Io manco ricordavo che ci ha dato questo nome e mi colpisce. Sì. I patate in bacchiusi strascinate dalla frittura. Impacchiusi. Le patate è facile, impacchiusi. Sarebbe tipo chinichini rocchio. E vengono sicuro, trascinati. Perché non c'è questa volta la traduzione. No, io penso. No. Se ne è accorta adesso. Ogni tanto spiato. Sì. Strascinate, quindi proprio strofenate. Patate un po' chiusa. Ara frittura. Cioè una frittura con un buco al centro. Secondo me è la fessura. Voi infatti dovete bucare la padella. Ora ve lo spiegherò. Diciamolo chiaramente, sono patate fritte. Ah. Che gli ingredienti non sono molti. Vediamo gli bello. Ingredienti. Ah, allora, ingredienti delle patate macchiuse strascinate alla frittura. Allora, se no, patate macchiuse strascinate alla frittura. Ce l'è veramente, mi sta facendo il gioco. Io non manco mi ricordavo della scritta. Comunque, ingredienti ci vanno patate. Sì. Pante. Viva la patata. Che sembra estate sarà la salvezza dell'uomo. Che regia che abbiamo. Ma è bello tornare ogni tanto a quelle cose che ricordano la Romagna. La Romagna, che io ci stetti quando ero Nico. Addirittura, sì, caro, e lì ho imparato a fare insomma tutti gli inzaccati, sì, e soprattutto le patate un po' chiuse alla frittura, alla frittura. Esatto, frittura. Alla frittura. Allora, preparazione per... no, ma cosa? Patate poi? Ah, beh, scusate. Allora, ci vogliono patate tante, sì. Fate voi quando, io vi lascio liberi, liberi stavolta. Esatto, è felice, come una farfalla. Olio extravergine d'oliva. Sì. Sale. Basta, sono finiti di che... Poi patate, c'è la versione... olio e sale. No, questa... Io le do la versione plus. La versione plus. Peperoncino rosso di troppe a tequila. Lo sapevamo. 8 kg cipurri. Sì. E tanto aglio. E nduia. No, nduia no. Nduia no. No. Ok, va bene. Andiamo alla preparazione. Preparazione. Palare le patate. Mi raccomando, carta e penna. Allora, palare. Che pelare, non so che cazzo. Pelare. Ma io che leggi. Palare. Allora, palare le patate. Palare le patate. Forse è palare. No, metterle su una pala dritta. Perché devi andare a tagliare su. Infatti il libro è suo. Quindi esatto. Dovete scritto mettere... palare e palare. Allora, mettete le patate belle stese in verticale su una pala in modo tale che pigliano su, le stanno a abbronzare. Comincia a essere già strano. Voi li dovete prendere, diciamo, quando non se l'aspettano, sì. Si abbronzano, apriamo e tagliate a fettine. Impalate le fette. Esatto, i tagliate a fettine, le fette non devono essere troppo fine. Manco troppo Berlusconi, però dico non troppo fine. Ah no, pensavo che non fossero. Sì, una battuta bellissima. Pensavo non fossero, che si rivolgessero male. No, no, no. Ah, ho capito. Fini, no? Cioè, le patate devono essere tipo, oh, ma che mi stai a prendere? Esatto. Solo queste patate. E poi sembrava la patata figlia di Califano. Non so se hai notato. Salutiamo Califano. Salutiamo, ricordiamolo. Il, Califo, il grande Califo. Terrese noia. Va bene. Lavarle e salarle. Sì. Cioè salarle vuol dire salirle sul palo. Salirle sul palo. Palare le patate. E salare vuol salare. Dire salire. Poi nel frattempo fate riscaldare una padella un dito. Potete scegliere di chi sia, di marito, fratello, chi lo capo. Ah no, un dito d'olio. Scusate, un dito d'olio. Pensavo un dito. E quando è un po' caldo. Cosa, il dito o l'olio? L'olio, cioè avete a mettere un gomito appena, appena state dentro all'aria, certo. Non caldo come per le... Esatto, se mettete il gomito. Un po' prima di quest'urlo, sì. Quindi, come dire, quello là, quella che c'ha lei, come, ecco, ecco, appena avete questa sensazione, farla risentire, brumma, quando avete questa sensazione, grazie. Dell'olio caldo. Esatto, allora che fate? Le calate. Le calate, le patate. Caldo, certo, bene. Però non deve essere caldo come per le fritture. No, un po'. Perché... Non sono patate realmente fritte. Bravo. Ricordiamo come sono queste patate? I patate impacchiuse alla frittura. No, impacchiuse. I patate impacchiuse e sfracicate alla frittura. Alla frittura. Sfracicate sembra poltare. Sfracicate. Allora, comunque, poi cosa fate? Giratele durante la cottura. Voi giratele durante la cottura. Non le guardate. No, perché dovete guardare. Non sono fine. Se vi giocate, allora, che cazzo è? Hai ragione. È vero. Non preoccupatevi se le patate si attaccano all'altro, perché non essendo fini, loro si prendono allegnato proprio in la padella. Si chiama un bacchiuse proprio per... quindi sono patate che non sono fini, si rivolgono male e soprattutto si litigano dentro la padella. Perché sono bacchiuse? Perché pensano sempre oh, no, e quindi no, si litigano per averlo. No, non volevo dire pacchio. No, e poi un pacchio è catenese. No, vabbè, allora quando le patate sono dorate come in figura, le patate quale figura? Lei, chi legge il libro non lo vede, lei non può leggere. Chi legge il libro non lo vede, figurati con l'ave. Cioè, chi ascolta non vede il libro che lei sta leggendo. E vabbè, farò un audiolibro. Ma chi ascolta non vede, a prescindere. Bello come slogan. Come tutti i ciechi ci ascoltano. È lo slogan della radio, chi ascolta non vede. Ma quando le patate sono dorate come in figura, le patate imbecchiuse strascicate dalla frittura sono pronte. Ma strascicate dalla frittura, alla frittura. Ma io volevo dire una cosa, ma voi come radio non vi sentite razzisti? Perché d'accordo, chi è non vedente vi può ascoltare. E chi è non sordo, chi è non sentente. E non lo so. Non è bello questa effettivamente cosa. Avete scelto i non vedenti. Ci e scusi. Questo vuol dire schierarsi. Ci scusi, e io ho una nonna che non può sentire. Io non ci sto. Allora mi saluto. Dai, grazie. Manca solo un minuto. Mi dico alla regia. Allora ci ascoltiamo il prossimo le pezzo. Le cipolle, tutte le altre che ha detto. Potete buttarle, non servono. Come preso non in giro. Servo. Ci ascoltiamo il prossimo pezzo. Sono gli status quo con Juju Down Down. We'll be right back. buonasera e benvenuti alla puntata settimanale del TG Lercio a cura dell'Onda in Onda. Andiamo subito ai titoli della settimana. Egitto, il dudongo non è mai esistito. Le autorità del Cairo hanno ammesso che il mammifero marino, noto come il dudongo, sarebbe in realtà solo un pupazzo per attirare turisti. Vittorio Sgarbi ricoverato in ospedale per mix di cazzate. Il critico d'arte e opinionista TV ha avuto un malore mentre riascoltava una sua comparsata in TV e allo stesso tempo criticava un disegno del nipote di 6 anni. Matematica. Un ricercatore dell'Università di Friburgo ha scoperto che Sasso in realtà può battere carta. Nuovo caso di mala sanità al policlinico di Bari. Una donna di 42 anni si era ricoverata per togliere le emorroidi e invece le hanno fatto partorire 2 gemelli. Sondaggio. 3 italiani su 4 sono 6 su 8. Ritirati dal mercato migliaia di dadi da brodo truccati. Caso Aldrovandi. Nuova affermazione shock di Giovanardi. L'ho ucciso io con la peperonata. Ora legale. Gli esperti confermano. Non serve un cazzo. Viabilità. Il treno per Napoli Centrale delle 20:15 è stato soppresso per non farlo soffrire più. 13ª conferenza mondiale sul clima. Gli scienziati di 126 paesi trovano un accordo. Non ci sono più le mezze stagioni. Amazzonia. Una spedizione di antropologi tedeschi ha scoperto una tribù mai venuta in contatto con la civiltà che crede ancora a Maurizio Belpietro. Ritrovano un cetriolo durante colonoscopia. Visita medica finisce in buffet vegetariano. Paul Gascoigne finisce di nuovo in ospedale per overdose da colluttorio. Renzo Bossi legge per intero un libro di Peppa Pig. La Lega trova finalmente il suo intellettuale di riferimento. E dagli USA una nuova scoperta su Leonardo da Vinci. La Monna Lisa era in realtà un coccodrillo. E questo era il TG Lercio a cura dell'Onda in Onda. Visitate lercio.it e noi ci vediamo la settimana prossima. La mia vita senza te non è così diversa. Faccio tutto un po' più piano. Entriamo dopo la pubblicità, siamo sempre su Radio Panorama, questa è l'Onda in Onda e per chi si fosse perso la nostra anteprima abbiamo veramente l'onore di avere con noi al telefono Davide Toffolo di Tre Leghe e Ragazzi Morti, ciao! Ciao a tutti quanti, ciao! Ciao Davide, come stai? Tutto bene? Bene, bene, grazie. Bene, bene così. Inizia la primavera, aumentano le percentuali di risposte bene, perché alle volte, sai, nell'inverno le risposte erano sì, ma, è vero, è non vero. Saprei. Invece aumenta la percentuale di risposte positive. Davide Toffolo, diciamo che non dovrebbe aver bisogno di presentazioni, perché è uno dei più importanti fumettisti italiani contemporanei, nonché cantante e chitarrista del grande gruppo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Una realtà italiana punk rock molto molto interessante. Senti, noi siamo qui per parlare del nuovissimo lavoro, Primitivi del Futuro. No, no, scusami. Il disco nuovo si chiama. Scusami, ho sbagliato. Io ti chiedo. Comunque, vabbè, ti chiedo perdono perché comunque anche. Prediti il futuro è del 2010. Però, siccome è un disco che io amo, te l'ho detto proprio così senza pensarci. Sì, sì, capisco. Vabbè. Se vuoi, possiamo parlare anche di quel disco. Va bene, riparleremo anche di quello. Però al momento parliamo del giardino dei fantasmi. Parliamo del giardino dei fantasmi. Quando... Davide, Antonio è un idiota, non ti preoccupare. Ma lui ma è no, fatto così. Figurati, capisco. Ma lui è fatto così. Non ti preoccupare, no, no. Sì, sì, poi vuol dire che ha un amore per i nostri dischi completo, ecco. Appunto, sì, cominciamo a no, citare. Sai cos'è? Che noi abbiamo già intervistato in realtà uno dei tre leghi che si è morti, Luca Masseroni, per sì. Primitivi del futuro. Ecco, c'è stato un attimo di revival anche di e quel lui momento. Lui ha fatto il revival, ho detto sì. Sì, siamo qui per Primitivi del futuro, non è vero. Va bene, allora, nel Giardino dei Fantasmi, che è uscito praticamente da pochissimi mesi. Sì. È uscito a dicembre. È uscito a dicembre. E che sonorità ci sono in questo disco? Cosa, anzi, come testi, su cosa vi siete concentrati? Oltre la vostra attenzione su cosa si è concentrata? Ma guarda, come sempre sono delle specie di esorcismi. Le nostre canzoni sono delle specie di esorcismi. Rispetto alla difficoltà di esistere, neanche di vivere, di essere proprio. Allora ci sono canzoni diverse, alcune... sono più dei bozzetti, nel senso dei ritratti di personaggi, come non so, i cacciatori oppure le anime perse, ci sono proprio dei personaggi precisi. Altre sono delle emozioni, per esempio la canzone che state ascoltando adesso sottofondo, sì. Che si chiama La mia vita senza te, è una specie esatto. Di esorcismo contro la perdita. E ogni persona vive una perdita a modo suo nella propria vita e quella canzone lì è un po' un esorcismo appunto contro questa cosa qua e funziona, ecco, ha funzionato per me che l'ho scritta in un momento difficile della mia vita quando ho perso mio papà pochi anni fa e penso che possa funzionare per molte persone. Io purtroppo ho avuto lo stesso problema, chiamiamolo problema, la stessa tragedia l'anno scorso, molto prematuramente, quindi l'ascolterò anzi con maggiore attenzione, anche se già l'avevo ascoltata nel pomeriggio. Anzi che non l'hai scambiata per la faccia della luna. Cretino, sei un cretino totale, comunque. Vabbè, perché ormai ora lui deve farci tutto il ricamo. Guarda, io questa farà battute me la venderò sì. Fino alla fine guarda, della tu nostra ti venderai la casa, perché io ti rovinerò. Puntata. Cosa? Almeno fino alla fine della sì, ma al minimo, se non nelle prossime. Io voglio vedere mercoledì prossimo che succede, vabbè. Senti, ma state portando già dal vivo il disco oppure ancora il tour deve iniziare? Sì, abbiamo già fatto molte date, ne abbiamo fatte quasi 20, abbiamo fatto tutto il giro d'Italia. Ma scendete sin qui? Ma sono già scesi, Antonio, ma non no, da poco, non so che sono scesi da poco, io voglio che riscendano, problemi. Siamo venuti a Palermo. Candelai. Ai candelai. Sì. Siamo venuti a Palermo poco tempo fa, proprio. In effetti è troppo poco. Sì. Bella serata. Sì, bellissima. Poi a Catania anche. Uh-huh. No, quest'anno qua abbiamo la fortuna di avere deciso di avere un'agenzia interna al gruppo, non un'agenzia esterna, perciò le strategie diciamo di movimento sul territorio sono state più precise e siamo riusciti da febbraio a fine aprile faremo praticamente tutta Italia. Ci manca forse la Puglia, ma la rifaremo fra poco. Quindi toccherete un po' bellissima, veramente tutto. Bellissima. Un po' tutto. Senti, sì. Davide, io volevo che tu spendessi due parole su Alle anime perse, perché io l'ho ascoltato un pezzo molto bello. Tra l'altro lo sentiremo subito dopo la fine della nostra intervista. È uscito il video da poco, sì. Pochissimo tempo fa, pochissimi giorni fa, scusami. Vorrei che spendessi due parole su questa canzone che è molto, molto bella, anche diciamo più melodica quasi delle altre. Sì, è una canzone melodica che parla di un rapporto particolare fra la storia di una mamma e di una figlia, ecco, questa è l'idea. Però in realtà la canzone ha un cappello, si capisce che è una storia inventata che serve per consolarsi in una situazione di pericolo, di guerra, diciamo, perciò è un racconto nel senso più stretto del termine, non ha niente di reale se non la realtà di essere un racconto che serve per consolare, ecco, diciamo, forse la prima canzone dei Ragazzi Morti che ha questa intenzione così precisa, però sta dentro appunto un gioco di racconto. È stata una canzone con un'ispirazione immediata e poi invece la costruzione della storia vera e propria è arrivata, se devo dirvelo, incontrando una ragazza, diciamo, che molto giovane, che segue la nostra musica e che mi ha raccontato un po' la sua storia e mi ha ispirato per mettere insieme questo raccontino qua. Beh, è quella che... No, prego, finisci. No, scusi. No, dicevo, è quella che mi ha colpito di più, perché appunto il titolo stesso richiama anche un po' il, se vuoi, il titolo dell'album, cioè Nel Giardino dei Fantasmi suggeriva subito Alle Anime Perse come primo da andare a acchiappare quando devi sentire un nuovo disco, perché è quello che si avvicina di più, diciamo, al titolo. Mentre invece Nel Giardino dei Fantasmi, come è nato proprio come album, come idea di percorso nuovo? Sì, è un omaggio a un disco importante fatto alla fine degli anni, nei primi anni 80, da Brian Eno e David Byrne dei Talking Heads, che hanno fatto un disco sperimentale che aveva più o meno lo stesso titolo. Era un disco dove c'era dentro del funky, della musica etnica e dell'elettronica e del rock, diciamo, alla newyorkese, punk così. Però tutto dentro un calderone nuovo per costruire un sound speciale. E un po' è quello che abbiamo fatto noi con questo disco qua. Abbiamo messo dentro tutti i fantasmi della musica che abbiamo vissuto in questi anni, dal rock al reggae, passando per il dub, fino ad alcune cose di una musica etnica, anche se immaginaria, diciamo così. E le abbiamo messe assieme per costruire un sound nuovo, che è questo. Io penso che il disco sia un po' un racconto di tutto quello che musicalmente ci è capitato in questi anni, e perciò ha avuto, rispetto a Primitivi del Futuro, meno resistenze, nel senso che quello era un disco esplicitamente reg, perciò qualcuno ha storto il naso e ha detto ma cosa stanno facendo questi pazzi qua e là. Invece in questo disco qui ci sono dentro appunto tutti i pezzettini della nostra storia, e perciò si possono avvicinare anche le persone che ascoltavano il nostro sound prima di Primitivi del Futuro. Sì, come me. Tra l'altro, a me è però Primitivi del Futuro è piaciuto molto. Vedo che in questo album, invece, sempre riguardando le contaminazioni reggae, siete avvalsi di collaborazioni anche con i Mellow Mood, se non sbaglio. Sì, ci sono varie collaborazioni dentro questo disco. Ci sono i Mellow Mood ci hanno dato una mano per alcune a cantare alcune cose, per alcuni cori, e Giulio dei Mellow Mood ci ha dato una mano su alcune chitarre, sull'ukulele, che salutiamo, diciamo, tra l'altro abbiamo intervistato poche settimane fa anche loro. Ah, ok, diciamo che i dischi sono fare i dischi, cioè costruire la musica, è anche l'occasione per incontrare musicisti o persone, insomma. I Mellow Mood che pubblichiamo noi come Tempesta fanno i dischi praticamente a casa nostra, cioè dove c'è lo studio di Paolo Baldini, dove abbiamo fatto il disco anche noi, perciò è stato molto naturale incontrare sia le sonorità che proprio anche fisicamente loro durante la registrazione del disco. Ho capito. Senti, allora, noi dobbiamo, il tempo stringe veramente, forse Antonio vuole fare un'ultima domanda sul nuovo singolo, puoi dirlo a tutti, vero Antonio? Il nuovo singolo, sempre prendendo dell'album del 2010, sì, noi andiamo sempre indietro, è un cretino, va bene. Noi ringraziamo tantissimo Davide Toffolo per essere stato con noi. Vogliamo ascoltarci il vero nuovo singolo Alle Anime Perse. Invitiamo tutti quanti ovviamente ad acquistare il disco Nel Giardino dei Fantasmi. Ti facciamo un grande in bocca al lupo, Davide, per tutti i tuoi lavori. Ne fai tantissimi con la Tempesta, con i fumetti, insomma, non so se tu hai mai comprato un fumetto disegnato da Davide. Devo ammettere di no, ma perché mi devi sputtare ancora? Perché tu ce l'hai un fumetto di Davide. Sì, portalo in radio adesso. I cinque allegri ragazzi morti. Ma no, nominarlo non fa di tempo, vabbè, sassone. Ma dai. Davide, allora grazie ancora per l'intervista. In bocca al lupo per tutto. E appunto, ci ascoltiamo Alle Anime Perse. Un abbraccio fortissimo. Ciao. Alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza bacio fra il mio letto. Alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza bacio fra il mio letto. Alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza bacio fra il mio letto. Figlia di quel ragazzo che nessuno ha visto più, passato 20 anni fa e non contornato ancora. Si divertì con sua madre, come sapeva fare, lasciandola addormentata a sorridere, a sognare. Alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza pace un fulmineo letto. Alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza pace un fulmineo letto. Silenziosa come la neve, bianca come la luna, la pelle di sua madre, gli occhi di suo papà. Un uomo che non ha conosciuto, sul quale fantasticare. Un capitano, un pilota, l'avrebbe voluto incontrare. Alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza pace un fulmineo letto. Alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza pace un fulmineo letto. Compiuti 14 anni, un uomo arrivò dalla strada, la prese in mezzo all'erba, a qualche metro dal mare. Prima un po' di paura, poi un fremito e si lascia andare. Con un uomo senza nome, che le insegnò a baciare. Come è arrivato partì, senza mai più tornare. Lei lo aspettò dritta in piedi, fra la strada e il mare. Si disperava perché aveva sempre fame dei baci che non trovava più e che erano come il pane. Ci piace rimanere con la faccia da ebeti. Andrea, io ti webcam capisci? No, Andrea, io ti ringrazio. Per cosa? Per cosa? Per la classifica. Io spero che Davide Toffolo sia ancora in linea, cioè ci ascolti, perché tu mi hai detto: dai Antonio, prendi informazioni su Primitivi dal futuro. E invece era un disco del 2000... No, era un disco del 2010, sì. Ho fatto una figura di merda colossale. Ma non preoccupare. Vorrei un applauso della curva per consolarmi dalla figura di merda colossale. No, l'applauso è per la figura di merda. Ah, però. Non per consolarmi. No, per te no. Va bene. Allora, partiamo con la nostra classifica dei 10. I 10 momenti di ansia pura. Veloci, perché siamo, cioè dobbiamo correre, sì, in questa tra volta. L'altro poi iniziamo la classifica, poi poesia e pezzo, va bene? Quella poesia che una nostra ascoltatrice che non ha il coraggio possiamo di rivelarsi prima della classifica, dare in anteprima il titolo della prossima ricetta di Tony, che abbiamo deciso di fargli dire il suo, presa dal suo libro. Ma ce la dice lui, la facciamo dire a lui, lo richiamiamo o la leggiamo, no, noi? No, leggiamo come dovrebbe essere. Come la... Ah, Tony? È lui quando... come qua? Tony? Sentivo che volete sapere la notizia, sì, di prima, solo il titolo. Siete pronti? Beh. Io mi caricavo di un bombolo d'ossigeno perché la ricetta è longa, non si può dire. E quello. Poi va via che abbiamo fretta, veloce. Questo per tenervi in attesa. Bene, grazie vai, Tony, arrivederci. Antonio, hai sentito come si chiama questa ricetta? Le scalille, scalilli, scalidre, scalidri, scaligge. Ma non so cosa voglia dire, è uno scioglilingua. È una ricetta calabro. buonissima. Lo posso assicurare. Perché tu hai letto tutto il libro, quindi certo, lo sai. Certo, lo so, e quindi rimanete con noi anche la prossima settimana per conoscere, esatto, gli ingredienti di questa ricetta. Ma cominciamo con la classifica. Con cosa delle, con la, i 10 momenti di ansia pura. Al decimo posto, l'ansia mentre ritiri le cose nel sacchetto della spesa. Mentre la cassiera butta in fondo le cose che abbiamo appena comprato, soggiunge l'ansia da prestazione, il maledetto sacchetto di plastica che non si apre, la scelta infelice di disporre le cose a caso, il pensiero di dover pagare, tirar fuori i soldi, contare i centesimi, sudore, ci spaventa a rallentare la coda, prendiamo spunto dai vecchietti che contano le monetine arancioni una a una, loro se ne fregano, e andiamo subito invece alla posizione numero 9, l'ansia dei pazienti in salita. Dei pazienti? Dei partenze. Ti immagini a sto ospedale che per arrivare all'ingresso c'è sta salitone. Perché ho pensato al vecchietto della coda. L'ansia era il dei pazienti in salita. Va bene. Allora, mettiamo caso che c'è un supermercato in salita. Quindi c'è il vecchietto in coda che conta le monete. E sì. Più avanti di questo supermercato c'è un ospedale. Esatto. Il paziente è in salita. Esatto. L'ansia da partenza è in salita. Quando la coda ti ferma come proprio nel bel mezzo di una salita e hai giusto il tempo del semaforo rosso per ripassare mentalmente come si parte. Oh mio Dio, qual è la frizione? Solo Cameb potrebbe dircelo, ma non c'è Cameb. Andiamo all'ottavo posto. L'ansia da PIN. L'ansia nell'inserire l'esatto numero di telefono durante una ricarica. O l'ansia nell'inserire il PIN al bancomat. Ragazzi, io sono arrivato a sbagliarlo 3 volte. Alla quarta ero fuori, ho detto vabbè, non pago. A ho me, rinunciato, ho detto guarda, lo compro. Lo sapete che a me è successo col primo numero di telefonino? Ho voluto fare una grande sfida. Non mi ricordavo, non si sa perché dimenticai il PIN. Quindi dopo 3 tentativi lui mi chiede il PUC. Il PUC è un po' più complicato, sono più cifre. Ma io, siccome sono bravo, ricordate come ho detto, io mi ricorderò il PUC. Ho provato anche il PUC, mi ha detto scheda disabilitata. Mio padre mi ha sequestrato il telefonino per un mese. C'è chi realizza controlli incrociati prima di inserire il numero di cellulare da ricaricare. Non so, anche con la R moscia. Chi scrive è uno dei pochi scemi che ha ricaricato un altro numero di 20 euro. E chi quando si reca al bancomat per prelevare ha paura che i servizi segreti lo stiano spiando e realizza tutte le operazioni assumendo posizioni che impediscano la visuale di chi sta dietro, sempre spaventati che un pistolero arrivi a rapinare. E alla posizione numero 7 abbiamo l'ansia quando si passa davanti ai cani poliziotto. Noi comuni mortali, pure quelli che non hanno mai fumato uno spinello nei pressi di un cane poliziotto, Pinello, si sentono in tasca di tutto. Pinello. No, ma Michelino, tu Pinello. No. Pinello, è suo zio Pinello. Anfetamine. Le anfetamine? Ma tu non puoi conoscere a 6 anni le anfetamine? Ashish. Ma è presidente della Repubblica. Ah, no, nome del consiglio. Del consiglio, scusate. Bello quando ricordi. Comunque, cocaina. Ah, stavi leggendo cocaina, eroina, cocaina. Peggio di paura e delirio. Alla Vega. Qualcuno da cui imparare c'è. Ricordate l'aneddoto inventato, raccontato nelle Iene da Mister Orange? Se non avete mai visto Le Iene di Tarantino, ve lo suggeriamo. E senti, abbiamo il tempo per quella poesia. Ce l'hai il sottofondo giusto? Vabbè, Michelino, ascolta anche tu la poesia invece di chiamare la mamma. Questo allora, bambino deve rimanere impuntato per tutta la poesia o poi se ne va? Ma io penso che ascolti sicuramente la poesia, poi deciderà. Che cosa? Cosa vuoi che dica? Intanto non capisco perché ci sono in tutto il mondo delle rane. Rane senza senso. Che sembra l'introduzione a Certe notti nel disco di Ligabue, Rane a Rubiera Blues. Poesia. Non abbiamo altro. Perché questa poesia? Tanto spiega. Allora, c'è un'ascoltatrice che ci ha voluto omaggiare di una poesia. È un'ascoltatrice un po' particolare, capirete durante il testo perché non si può rivelare. E allora ha detto io la mando, Antonio, leggila tu o la legga Andrea e non dire il mio nome in radio possibilmente, perché lei ha una vita un po', diciamo, tormentata. Possiamo dare indirizzo, numero di telefono? Assolutamente sì, però solo a fine puntata. Posso? Ma questo sei un demente. Trova un sottofondo adeguato. È una poesia romantica. È un anche. Sottofondo. Ti posso dare così. Il cuore che batte. Ma che sei un... Perché il cuore che batte, caro Bumbo? Dacci anche un silenzio. Ma a me piace alla fine questo sottofondo. Vai, Antonio. Cari amici miei surfisti, che non siete già mai tristi, io vi ascolto da 4 anni e quasi non sento più gli affanni di una vita sempre in corsa, cercando di acciuffare un'altra borsa. Chi ci governa mi chiama delinquente, però non è mai in grado di sfamare la gente. Non voglio mica case, ville, uffici o bei palazzi. Avessi la pancia piena, quelli sì che li chiamerei sfarzi. Io avrei fatto un'altra rima. Ma loro l'han persa quella semplicità, e magari un giorno qualche dio gliela ritroverà. Ma non è tempo di farsi prendere a male. La primavera è giunta e il sole fiero sale. Allora da quest'angolo di casa un po' rido e un po' piango, e urlo a tutta voce: ma quanto sei figo, mo te magno. Ma motte magno. Attenzione, forse abbiamo Ameb. No, è sempre l'amico di Ameb che cerca Ameb. È Cameb, ragazzi, è Cameb. Vabbè, ringraziamo la nostra ascoltatrice Ladruncola. Sì, capito, Montemagno. Ma è per il nostro regista. Eh sì, alla fine è tutta per lui. Sì, alla fine è tutta per me. Vabbè, l'ultima frase, il resto è un po' per tutti. Dice ragazzi, comunque io su non voglio mica case, uffici o bei palazzi. Io so cosa volevo. Non voglio mica casa ufficio bei palazzi. Anzi, ma non vuole neanche Raffaele Gualazzi. Ah, ecco, me la io musica. Vorrei mandare la pubblicità, che dite? Ah, no, non penso. Mandiamola. Allora, allora stava bene Raffaele Gualazzi. Vabbè, è vero, qui dovevi mandare il buon Raffaele. Vabbè, ti devo dire sì. Va bene, allora non c'è tempo per un pezzo, ci spariamo alla pubblicità, non andate via perché ancora ci sono 20 minuti di grandi risate insieme. A classifica dopo. E poi Marco dei film brutti, restate con noi. Sky. She's sexy. Eccoci qui dopo l'ascolto di Nerd con She Wants to Move. Siamo ancora qui e dobbiamo annunciare il nostro super graditissimo ospite, ormai presenza fissa per tutta questa stagione. Cosa mi dici, regista? Che dobbiamo annunciare la sigla perché sta per iniziare il film brutto della settimana. Credi di avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. E diamo il benvenuto come al solito a Marco, il grandissimo. Ciao Marco! Ciao meravigliosi, come state? Ma guarda, qui benissimo, c'è proprio l'aria primaverile, come ho detto ad altri intervistati durante la puntata, che si sente grazie in voi. Pieno. E lì no? Grazie lì no? Grazie voi, qui ancora non ci siamo per c'è niente. Ancora un po' di freddino, vabbè, arriverà, sì. Arriverà anche lì, ma magari qui è destinato a cambiare ancora il tempo perché fa troppo caldo anche per essere aprile in Sicilia. Allora, oggi di quale film brutto parleremo? Ce l'ha annunciato nella scorsa settimana, nella scorsa per chi puntata, non ci ha ascoltato, insomma. Mi sembra che abbiamo a che fare con il grande Bruno Mattei, Marco, vero? Assolutamente sì, in uno dei suoi, diciamo, film tipici, cioè il clone di Rambo 2, in questo caso è Strike Commando del 1987. Bellissimo, cioè già il nome è bello. È bello, il nome è potente, infatti anche il film, diciamo, è bello sostenuto, insomma, non deluderà sicuramente gli appassionati. Non vi dico niente della trama, perché già dire che è un clone di Rambo 2, insomma... vi dice tutto. Abbiamo il classico energumeno, soldato energumeno, diciamo, reduce, che in questo caso deve salvare una colonia, diciamo, di vietnamiti, diciamo non Vietcong, da una comunità che è gestita da un vecchio frate ubriacone, che è assediata praticamente dai Viet Cong, appunto, che sono in questo caso comandati da un gerarca dell'Armata Rossa. Quindi vi lascio immaginare il canovaccio del film. Il nostro eroe a capo della truppa tenta di attraversare la giungla per portare in salvo questi disgraziati, che moriranno uno ad uno, chiaramente, nelle classiche imboscate. Quindi mi sembra che non ci sia un happy ending per questa. Non proprio. Tra l'altro poi c'è anche il clone della scena della mitragliata ai computer, no? Per esprimere la rabbia del protagonista, sì. Che viene, diciamo, coinvolto in questa in questa missione quasi suicida, insomma. Diciamo che il film nella parte centrale può essere un po' duro per i neofiti, perché fondamentalmente abbiamo qualche assedio, qualche assalto nella giungla, così con qualche cinese che fa la classica capriola per morire, ma nulla di più. Mentre l'inizio, che è veramente ottimo, perché il nostro eroe fa praticamente parte di una task force che deve distruggere un campo di concentramento, e praticamente riescono a farlo semplicemente attivando il detonatore, perché dell'esplosivo non ce n'è traccia. Cioè era come se già fosse già messo. Esatto, si limitano a passare questo filo, diciamo, conduttore intorno al campo di concentramento ed attivarlo con uno degli effetti sonori più ridicoli della storia, cioè... e il campo praticamente magicamente esplode. No, mentre è veramente pirotecnico il finale, veramente bellissimo, perché c'è un lunghissimo duello fra il nostro eroe e il malvagio gerarca russo, che prima, diciamo, consta di un corpo a corpo che al termine con una clamorosa caduta del russo da una rupe che non c'era nell'inquadratura precedente. Praticamente questa rupe appare improvvisamente durante la scazzottata e il cattivone cade, ma non muore. Non muore. Cade da una rupe inesistente e non muore. Esattamente, perché praticamente dopo, nella scena successiva, incredibilmente il nostro eroe ritrova il gerarca, il russo, cattivissimo, e decide che diciamo è l'ora di farla finita, e per ucciderlo riesce a infilargli una bomba a mano in bocca. Sì, è una scena meravigliosa, veramente triste. Ma tra l'altro sembra un telefonino diciamo vecchio modello, esatto, più che una bomba, esatto. Almeno dallo screenshot che vediamo qui sul sito. Lo stiamo vedendo, esatto, nel sito, e siamo morti dal ridere, soprattutto per i titoli. Lo sgozzamento del vecchio, la prima frase. Cioè, sembra Beppe Grillo, sì, il vecchio. Sì, tanto sembra Beppe Grillo. Esatto. No, la scena da bomba è veramente difficile, perché il poveraccio, per simulare diciamo questa introduzione in bocca, deve darsi da fare in una maniera incredibile, come se volesse lui inghiottire la bomba e non subirla. Sì. E poi l'esplosione è fantastica, perché si vede il bellissimo trucco che hanno inventato Mattei, che chiaramente è sempre coadiuvato da Fragasso, non dimentichiamocelo. Certo, hanno mai dimenticato. Hanno preso un manichino, la parte inferiore di un manichino, con tanto di coperchio, gli hanno messo un paio di jeans, l'hanno imbottito di esplosivo e poi hanno dato fuoco. E si vede benissimo nell'esplosione il coperchio del manichino che si apre e si chiude per via, diciamo, della deflagrazione piuttosto violenta, veramente. Una scena orrenda. Bene, e allora con cosa accompagniamo la visione di questo capolavoro del e grande soprattutto Mattei? Soprattutto se c'è una scena clou che non ci hai raccontato. Oltre a questa qui, della bomba a mano, che è meravigliosa, c'è anche un ottimo esempio di taglia e cuci in stile matteiano. Praticamente si vede uno dei soldati russi, o Gascon, non mi ricordo bene, che spara, sì, e l'uomo che muore in un altro film, è veramente bellissimo. L'uomo muore in un altro film? Esattamente, cioè, è praticamente un pezzo preso da un altro film, si vede benissimo, cambia proprio la qualità dell'immagine, della fotografia, e poi questo film non c'era, quindi praticamente... Ma non bastava mettere un attore e farlo morire così, no, hanno preso proprio un'altra scena. Costava giusto, troppo. Superano gli spazi temporali e pellicolari. Superano la pellicola. Allora, con cosa lo accompagniamo da mangiare questo film che, ricordiamo, si chiama Strike Commando? So che mi ripeto, ma questi sono film che non possono fare a meno delle patatine alla pancetta. Ah, è buonissimo, sì, vabbè. Allora, proprio la flore della patatina. Beh, i nostri ascoltatori sono già forniti di patatine alla pancetta, ne avranno già una credenza piena, lo diciamo. Lo spero, perché è uno snack che non può mancare nella dispensa del film bruttista, Doc. Assolutamente no. Va bene, noi ringraziamo come sempre l'incredibile Marco di Film Brutti, grazie, gli diamo appuntamento, ragazzi, a mercoledì prossimo. Vi invitiamo tutti quanti film brutto a cercare, a noleggiare o a scaricare Strike Commando di ovviamente Mattei e Fragasso del 1987, e vi invitiamo chiaramente a rimanere ancora con noi per la fine della nostra classifica e mercoledì prossimo per il nostro film brutto, sempre con Marco. Marco, ti salutiamo, ci ascoltiamo un pezzo di Eddie Grant, Gimme Hop Joanna, bellissimo, vai. This is the heartbeat, the heartbeat of Sicily, Radio Panorama, the art of Sicily. Allora un saluto anche alla signora Agnello, Mrs. Lamb, che ci sta ascoltando da Palermo. Anzi, direi un applauso della curva per la signora che ci ascolta ormai tutti i mercoledì da almeno 3 mesi, sì, una cosa del genere. E poi andiamo avanti con la nostra classifica, appunto, delle 10 ansie, no, 10 momenti, scusate, di ansie. 10 ansie. 10. Tu zitto, che sei quello che mi ha detto di controllare il disco. I 10 momenti di ansia pura. Piccolo riassunto: al 10° posto l'ansia mentre ritiri le cose nel sacchetto della spesa. Al 9° l'ansia da paziente, dicevo Andrea, in realtà è da partenza, in salita. Paziente in salita, guarda che bello. Bellissimo, sì. All'8° posto l'ansia da pin. Al 7° posto, grazie Andrea, l'ansia quando si passa davanti ai cani poliziotto. E continuiamo al 6° posto l'ansia da chiacchierata preesame. Fortemente sconsigliato l'interlocutore. È vero, l'interlocutore. Interlocutore mi hai sputato mentre parlavo. Perché hai detto cocutore? Metterà in risalto nel giro di pochi minuti tutto quello che non sappiamo, facendo salire in noi uno spropositato terrore. Vabbè, in realtà era uno spropositato, però tu devi sottolineare l'errore agli altri. Per molti può essere letale. Letale. Annaspando nell'ansia. Anche tu annaspi, però nella lingua italiana. Dell'impreparazione si può scegliere di ritirarsi senza neanche scendere in campo. Al posto numero 5 invece abbiamo l'ansia delle porte del treno. Oddio, fatemi scendere! Questa era un po' come... Esatto, ma come fai a imitare Giacomo? No, io non lo imito. Ah, era lui, eravate già pronti, tu hai detto come, sì, lui doveva dire. Esatto. L'ansia da antitaccheggio del negozio. La posizione numero 4. Io lo so, suonerà ora che passo. Gente che non ha mai rubato nemmeno la matita all'IKEA. Posso dire che io all'IKEA ho rubato un sacco di matite, ma quando c'è stata la cosa della carne di cavallo ho avuto paura anche a toccarle le matite. Perché pensavi fosse fatta di carne di cavallo? Sì, non è che scrivendo, toccando la carne di cavallo si diventa equini o si hanno malattie strane. Non si sa mai. Vabbè, andiamo al podio. Posizione numero 3, l'ansia... Ah, questa cazzo. Io sino a ieri, vabbè. L'ansia al pesabagaglio all'aeroporto, incontrollata, quasi da prestazione. Gli addetti delle compagnie aeree sono come la Gestapo. La gente prima di partire ha la morte nel cuore. E se quel maglioncino che ho aggiunto all'ultimo pesasse troppo, io lo sapevo, non dovevo metterlo, lo spazzolino lo sapevo. Andiamo alla medaglia d'argento, alla posizione numero 2. L'ansia da scuola superiore, quando il prof scorre con la penna l'elenco per interrogare e fa su e fa giù, li legge tutti quei nomi, intanto alza la testa, cerca gli sguardi mettendo la paura nel cuore. Vittime e carnefici, l'aguzzino che prolunga l'attesa, la vittima cerca nello zaino qualcosa, qualsiasi cosa, giusto per non guardare avanti e incrociare lo sguardo vessatore. Chi scampa festeggia, ma non si pensa mai, mai ai martiri interrogati. È vero, sono quelli che rullo di tamburi ci vanno peggio, perché al primo posto abbiamo l'ansia nei rapporti d'amore. L'ansia d'amore, ovvero l'attesa per conoscere quando ancora non ci si conosce, per, quando ci si è conosciuti, i messaggi e le risposte che arrivano o non arrivano. E quando arrivano a volte fanno attenzione. Ma che frase incidentale era? No, ridevo per... Ah, ok, perché vedevo che ridevo. Ah, no, no, forse no, è giusto. Vai. E quando arrivano a volte si fanno attendere lunghe, tipo un po' che ti sbiellano il cuore. Ma, per capire se interessi o non interessi. Eh già. È la scopata. Beep. La prima volta e poi c'è il dopo. Eh già. Bipo serata. Su scopata, però sono arrivato in ritardo. L'ansia di fine storia, l'ansia dal rincontro, l'ansia d'abbandono. Quant'ansia per un poco d'amore. Questa era la classifica delle 10. A proposito dell'ansia da prestazione, su Facebook è nata una pagina molto carina. Ah sì, sì. La tua prestazione di merda. PSDM, ognuno racconta le proprie prestazioni. Ce n'è una meravigliosa, sì, di una ragazza che va a letto con lui, non credo di ricordarla bene, però si devono, diciamo, pulire a fine rapporto, casa vuota, e lui usa le mutandine di lei, lei in un momento di gioia le lancia nel corridoio, sente dopo un po' la voce della madre: queste sono da lavare, gioia, e altre mutandine. E lei voleva morire in quel momento. Vabbè. Una cosa velocissima per ricordare che è stato il pesce d'aprile. Perché questo credo che sia il video. Il pesce d'aprile non è finita tutti benissimo. Infatti, una donna del Tennessee è stata arrestata dalla polizia dopo uno scherzo del 1° di aprile, in cui ha fatto credere alla sorella di aver ucciso il proprio marito. Stavo solamente facendo un pesce d'aprile, ha detto Susan Tammy Hudson, di 52 anni. Sì, ho detto, hey. Ellen, ho sparato a mio marito, sto ripulendo il casino, andiamo a seppellirlo. E ovviamente qualcuno l'ha sentita, diciamo. E sono arrivata ad ammanettarla. Esatto, quindi un pesce d'aprile che è finito molto male, ma guardo l'orologio, sono le 20 e allora mi sa che sono giunti i saluti, è giunto il momento dei saluti e allora volevamo ringraziarvi per essere stati sempre qui in onda con noi. È bello questo sottofondo mentre vi saluto, sento proprio la musica in me. Ma ecco che parte, esatto, Bruno Mars con Look It Out of Heaven. E allora vi diamo appuntamento mercoledì prossimo, se vorrete. Lui era Andrea. Andrea. Lui era Antonio. E di là c'è Bruma. E ricordiamo che la prossima settimana ci sarà la ricetta della scalille, scalilli, scalige. Ma ne hai messo una in più. Ma vabbè. Ma. Quindi rimanete con noi. Ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao. Ciao. You make me feel like I've been locked out of hell.